il sabato del villaggio. Ci siamo con RadioTube. Tra qualche istante, se smettiamo di giocare con Periscope, con Daniele Bellasio, sorridi. Non accende neanche il microfono per giocare con Periscope. Sorridi. Adesso sì, sorrido a tutti. Sono in onda su Periscope, ma adesso siamo in onda anche con RadioTube, Radio 24. Ops, è successo qualcosa di strano, c'è Valeria che è molto preoccupata in regia, ma a noi cosa importa? Siamo in onda con RadioTube, siamo in onda anche con Periscope, non so se sei riuscito a far partire questo aggeggio straordinario. Se ci riesco io è facile, ma proprio oggi in diretta direttissima dovevamo provare questa cosa, ma no, è solo per giocare, dai. Allora, mentre la nostra Valeria Bernardi in regia è lì, che gioca con i tastini e sistema tutto e cerca di far funzionare tutto, ma io sono senza occhiali, sai che non la vedo. Adesso rimetto gli occhiali per vedere se riesco a capire se sta funzionando tutto oppure no. Ah, adesso rifunziona tutto. Valeria, ma noi andiamo avanti o dobbiamo far sentire anche tutta la sigla di RadioTube? Facciamo sentire la sigla? Ma sì, facciamo dai. Che per ora abbiamo scherzato e andiamo, dai, facciamola ufficiale. Allora diamo la linea al nostro RadioTube. Vai. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Beh, senti che meraviglia, così con la sigla è tutto per bene, funziona tutto bene per il nostro nuovo appuntamento con la trasmissione di Radio 24 che vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo eppure anche un po' di perdibile. Questa settimana ce n'è di perdibile della settimana tra TV, web TV, social TV. Dai, do anche gli account così faccio tutto io perché c'ho l'abbrivio delle due ore del sabato del villaggio. Chiocciola Marta Cagnola, chiocciola di Bellasio e l'hashtag cancelletto RadioTube. Tra l'altro gli hashtag, gli account sono gli stessi anche per Periscope, questa cosa che sto tenendo in mano, che sembra la Statua della Libertà. Ma sei sicuro che stai trasmettendo su Periscope? Sì, ci stanno seguendo in sei, pure Giuseppe Cruciani ci sta seguendo, io sono emozionatissimo. Giuseppe, cerco di capire anch'io, cerco di seguirti anch'io per Placido vedere il tuo Sacco, live. Adriano Attus, il creative director del Sole 24 Ore, noi stiamo provando Periscope. Perché questa settimana c'è stato il delirio di Periscope, stanno parlando nelle ultime ore. Ma sì, sono due giorni, tre giorni, che cosa sarà mai successo? Allora, questa app, ne abbiamo parlato anche con Enrico Pagliarini, che in però... In modo più serio, sì, credo. Ma anche perché poi lui era un po' più timido e non ha voluto... timidone il Paglia. Ma ha detto no, non voglio fare questa cosa, anche perché... Il problema è che ne parlavamo poco con la via Twitter anche con un collega di un'altra radio e della stampa che è Luca Dondoni, che è un caro amico. Non vogliamo fare i doppi sensi con questa cosa, periscopiamo, non periscopiamo, è imbarazzante. Ma che inizio di trasmissione, è imbarazzante. Allora, spieghiamo seriamente cos'è Periscope, per chi non avesse seguito il nostro sabato del villaggio. È un'app che permette di andare in onda. Allora, in diretta. Sì. Streaming? Sì. Per i tuoi follower di Twitter. Praticamente io adesso, con il mio account di Twitter, Marta Cagnola, sono in onda con Daniele Bellasio davanti a me in studio. Sì. Esattamente così. Guardiamo anche chi c'è in regia. Mentre... Fate ciao Valeria, fai ciao Daniele Buonamici che è in assistenza. Vedi. Intanto tutti... Ci salutano, ci commentano, mettono i cuoricini e tutto questo. È piaciuta la tua camicetta? La mia camicetta con le zebre è bellissima. Sì. E tutto questo sembra un gioco un po' scemone, ma in rete non si sta parlando d'altro. Allora, io farei sentire anche un po' quello che ha combinato il più grande pioniere ormai della rete in Italia, che è Rosario Fiorello, che l'altra mattina è andato in onda così. Good morning, Italia! Rosario Mario Fiorello che si è messo veramente a fare una sorta di show su Periscope. C'è qualcuno che ci chiede su Periscope se ci possiamo vedere entrambi. Allora aspetta, adesso faccio il giro del tavolo. Giro io, lo fai tu il giro mai. Del tavolo. Allora ecco, tu fai il giro del tavolo e vieni da questa parte. Allora aspetta, che facciamo anche sulla sedia una chiappa per uno. Vieni qua, Daniele. Addirittura. Ecco qua, una chiappa per uno sulla sedia. Vediamoci, oddio. Ah, dobbiamo fare il selfie al contrario. Ecco qua. Aspetta che dobbiamo Belloccio Rosario. Ecco qua. Eccoli qua. Siamo tutte e due qua in onda su Periscope e anche in radio. Che poi Fiorello ha detto che effettivamente è stato inventato per lui, sembra, perché è lui qualcosa di simile faceva già. Eh beh, certo, andava in onda in radio in questo modo, facendo dei piccoli video con l'iPhone. Ma sono successe anche cose serie questa settimana, non solo cose scene. Certo, roba di cronaca dura. Ed è stata la prima cosa che è andata in onda praticamente su Periscope. È successo un incendio con un'esplosione a New York e la gente l'ha subito mandata in onda con questo sistema. Cari giornalisti, addio. Addio, ecco qua. After a while we start to see smoke. I went into the cafe and then I came back out and there were flames. Eccolo qua, l'esperimento di Periscope, la gente che cominciava a raccontare di questo purtroppo incendio ed esplosione che sono stati a New York. Cambierà molto il mondo dell'informazione. Scusa, fine delle conferenze stampa, fine delle anteprime. Problemi di privacy. Molti problemi di privacy. Tu hai mostrato gran parte della redazione, che qualcuno non volesse. Pensa a quanti filmeranno, non so, le partite, i concerti e non si può fare. Attenzione a dire la verità ai propri partner, perché metti che finisci in una diretta Periscope. Esatto, Felixcom subito si torna ai doppi sensi poi. Esatto, ecco. Felixcom dice che bisogna insomma stare attenti con la privacy, eccetera, eccetera. E ma i diritti televisivi, per esempio delle partite, quelle robe lì, niente, i concerti. Niente, sarà un delirio. Abbiamo. Esistevano, Isabite, i problemi di privacy. È vero, e sono tutte cose nuove. Dopo tutto, sono due giorni che giochiamo con questa app. Adesso direi che smettiamo di giocare con Periscope. Beh, magari lo faremo ancora durante la puntata, non lo so, anche perché adesso guardate qua, noi dobbiamo dare la linea alla viabilità, perché vi faccio vedere, abbiamo qua il nostro, sono le 17:14, è quasi il momento del nostro aggiornamento sul traffico. Traffico del villaggio, abbiamo lì Valeria che li manda in onda, abbiamo finito di giocare Valeria con Periscope. Adesso facciamo i seri, facciamo solo la radio, ci ritroviamo tra poco. Adesso facciamo i seri dopo aver giocato come i pazzi con queste app. No, c'è qualcosa di inquietante, però diciamolo. Ma cavoli, dobbiamo farci moltissime domande su come questo potrebbe cambiare il nostro lavoro, la nostra vita privata. Le registrazioni, le dirette, le cose, cioè è un disastro. Sì. No, è purtroppo. E poi il fatto che ognuno di noi sentirà di essere protagonista di un live streaming della propria vita. Troppo, sì. Ma non lo so, tante. Ma si può archiviare e registrare? Non si è ancora capito questo. Allora, si fa. Ecco Adriano Attus che ha fatto uno screenshot della nostra prestazione. Ma sì, succede di tutto. Beh, ha si registrato può prima la per quasi dopo. Riunione di redazione del Sole 24 Ore oggi. E ieri sera mostrava e non mostrava le pagine, gli impaginati del Sole 24 Altro Ore. Altro che Grande Fratello. Si potranno fare molte cose nel bene nel male. Cambiamo discorso. Ma sai mica tanto? Non perché mica tanto. Secondo te, allora, noi stiamo citando Periscope perché è di grande attualità. Non è l'unica app, perché c'è ad esempio Meerkat, che è l'altra. Infatti ce ne sono un po'. Oggi ci sono pezzi sui giornali che raccontano anche Enrico un po' Enrico Pagliarini mi ha fatto ridere prima perché diceva è il periscopio contro il suricato. E quindi, sì, perché Meerkat è un suricato. Scusa l'ignoranza. Sì, un po' i paralipomeni della batracomiomachia moderni, potremmo su dire cui così. Avrei fatto la tesi. Ma oppure certo. È un'idea di Stefano Accorsi. Ma Periscope è da un'idea di Stefano Accorsi. Questa settimana è tutto hashtag da un'idea di Stefano Accorsi. Anche di 1992 abbiamo già parlato. Quanti cassettini apriamo questo fine settimana? Quanti argomenti? Dovremmo andare in onda fino alle 22, 23, 24. Sì, no, solo fino alle 18 con RadioTube. No, dicevamo, ci sono tutte queste app. Sì. Ma che cosa ci vorrà mai per far funzionare queste app? Uno smartphone. Uno a caso? Uno qualunque. Perché io conosco uno. Non possiamo citarlo. Ma conosco uno che se ne è comprato uno. Sì. Che ha scritto un post. Sì. Sul post peraltro. E l'iPost, ha provocato il delirio. Il post di questa settimana era: ho comprato l'iPhone 6. Lo possiamo dire, anche perché è stato condiviso da chiunque. E noi abbiamo l'autore. Sì. Di questo post sul post. Che è anche un bravissimo autore televisivo, nonché giornalista, Giacomo Papi. Buonasera Giacomo. Buonasera, ciao a tutti. Ciao Giacomo. Giacomo, allora, autore di Che Tempo Che Fa. Dunque, possiamo dire così, per riassumere, sono collegato con un iPhone 6. Ecco. Anche tutti. Perché adesso devo dire, cioè, e dopo che l'hai scritto, ecco perché io inizio a leggerlo. Sì. Ho comprato l'iPhone 6, non sapevo che avrei innescato una reazione a catena che forse non si è ancora conclusa. È un po' una la fiera dell'est, perché tu invece continui a comprare device perché per garantirti la compatibilità di qualsiasi aggeggio hai dovuto cambiare tutto, compreso le calze. Ho dovuto cambiare anche moglie alla fine. No! Perché non era compatibile con l'ultima release di iOS. Capisco. No, ma soprattutto, vabbè, la mia disavventura è questa. Io ho comprato l'iPhone 6, ho dovuto collegarlo al mio vecchio MacBook 10.5, non si parlava, non dovevo cambiare computer, quindi ho cambiato computer. Ma la cosa curiosa, e poi non si collegava con il viva voce della macchina, per cui avrei dovuto, nel pezzo scritto, cambiare anche macchina. Però lì ci hai pensato un attimo. Lì ci ho pensato un attimo e per fortuna non sta a un certo punto miracolosamente era compatibile con la macchina. La cosa che io non sapevo è che tra i monoteismi oggi attivi nel mondo c'è anche quello per la Apple. Sì. Sono le tre religioni della Bibbia. Sì. E poi ci sono gli Apple maniaci che mi hanno inondato di spiegazioni totalmente tecniche su come fare, come avrei dovuto per collegare iTunes, eccetera, che sono, ma non pensavo di nominare il nome di Dio invano. Non avrei mai sognato, insomma. Io vorrei subito farvi sorridere perché mi sono divertita a cercare delle parodie dei video della Apple, che sono poi dei video che hanno uno stilema molto molto molto preciso. I Pantellas, ne abbiamo già parlato, amici, i Pantellas sono bravissimi, hanno fatto recentemente questa parodia dello spot per l'iPhone 6. C'è qualche parola cina, vabbè, non importa, i Pantellas. È semplicemente il miglior iPhone di sempre. E grazie al cazzo, altrimenti dovreste prenderci a sprangate nei genitali fino a trasformarci in una boy band di ermafroditi thailandesi. Quindi fatelo. È il miglior iPhone di sempre, con un design innovativo e per nulla simile a quello del Galaxy. Assolutamente! Il nostro nuovo chip viaggia ad una velocità del 50% superiore a 5S. Ma state pure tranquilli, non ve ne accorgerete mai. Anche la batteria è stata rivoluzionata. A differenza del vecchio putrido melafonino, la cui durata era paragonabile a una tua prestazione sessuale, iPhone 6 ti permetterà di messaggiare su WhatsApp per 28 ininterrotti minuti. Wow. Mi è piaciuta tantissimo, 28 ininterrotti minuti. Ma Giacomo, in realtà che cosa hai scoperto? Hai scoperto che per essere connessi bisogna essere sempre più connessi e non si mai più liberi di fare delle scelte se non che connessi. Che sei dentro un circolo, tipo c'era un film di Vincent Minnelli, si chiamava Brigaduno, in cui non riuscivi a uscire da un paese, in cui Gene Kelly arriva in un paese e non riesce più a uscire da questo paese, come un circolo incantato, per cui se tu cambi qualcosa di quell'equilibrio in cui vivi, fatto di computer, telefonino, automobile, si innesca una reazione a catena che non puoi prevedere, perché a meno che tu non sia un hacker o uno che dedica alla tecnologia la sua vita. Una volta la cosa fondamentale di Apple, io ho sempre avuto Apple nella mia vita, dal Classic in poi, era che pure è un imbecille, cioè che tu non ti dovevi preoccupare della tecnologia per usarlo. Oggi invece il fatto che questi strumenti siano in un sistema che si parlano tra loro ti obbliga a delle competenze tecniche che io non ho nessuna voglia né intenzione di avere. E questa è la cosa. Vabbè, e ma soprattutto poi c'è un fanatismo da Califfo Mac Baghdadi Io mi immagino cosa ti è arrivato, sì, Giacomo. Assolutamente. No, ma anche dall'altra parte, perché contemporaneamente il pezzo è diventato una specie di manifesto degli cantori di Linux e Microsoft. Io non ho nessuna, cioè non riesco a capire come si possa investire la nostra tecnologia quotidiana di una forza ideologica quasi religiosa così forte. Questo che, ma questo ho scoperto di fatto io. Allora, vorrei farvi ascoltare quest'altra parodia degli iPhone parodia, è proprio un account di YouTube che si chiama così, che invece è una parodia dell'Apple Watch, e anche questa mi ha fatto ridere soprattutto per questo la conclusione. Nessuno di noi ha ancora un Apple Watch, ecco qua. Comprare un orologio corrisponde esattamente a pagare il proprio tempo. Ancora una volta nella vita ho capito che l'importante è avere polso. E poi l'idea di sapere sempre l'ora giusta mi fa sentire come una sorta di guardiano del tempo. Mio nonno aveva una clessidra che lo svegliava sempre la mattina presto, era fenomenale. Voglio un cinturino di macaco. Ho sempre guardato l'ora dal mio iPad, ma era sempre sbagliata. Odio il gear. Abbasso il pebble. Con l'orologio gli abitanti della Groenlandia sapranno sempre se è giorno o notte. Ma basta guardare fuori dalla finestra, dai. Sono le 9, ho sempre sognato di dirlo. A dire il vero non credo sia stata Apple a inventare l'orologio. Ma chissà che è stato, quindi. Oh, forse è stato Android. Forse è stato Android. Sono le 9. Ho sempre sognato di dirlo. E beh, è fantastico perché ti fa sentire come se ci fosse la più grande scoperta dell'universo. Sono fantastici questi spot. Un club. Non sei più solo. Non siamo soli, o forse di più. Boh, non lo si sa. Forse di più. Giacomo, ma qual è il tuo rapporto con i social network? Intanto non su Twitter non c'è. Non è per quello. No, su Twitter sono entrato, ma ho 11 follower. Allora vado subito a seguirti in diretta. Giacomo Papi. Che alcune notizie passano da lì. No, ma non ho rapporti con i social network, li temo anche abbastanza. Ma questo lo so che scatenerà le vostre ire, perché no, è un'altra religione social network cosa. Ma no, non ho rapporti, ho un rapporto con la tecnologia di diffidenza, di uso, di rassegnazione, e però insomma non se ne può fare a meno, ma anche abbastanza sereno tutto sommato. Beh, quindi cercando di avere un rapporto sereno, se scrivi una cosa, se posti una cosa del genere in pubblico, poi invece ti tocca dover affrontare qualsiasi cosa. È molto divertente sia postarlo che vedere la reazione che faceva. Ma te l'aspettavi così? No, assolutamente, pensavo sarebbe stato un post praticamente ignorato, invece evidentemente ha toccato qualcosa di cioè anni a scrivere di letteratura, di politica, sì, poi scrivi di iPhone e boom! Guarda come mi è successo, lo scrivi un po' in maniera ridicola da far ridere, ma con gente che ti prendeva sul serio, cioè appunto io spiego che cambio moglie alla fine perché non è più compatibile con il mio iPhone 6 e ogni scusa è buona, e c'erano utenti Apple maniaci normalmente che dicevano ma non è possibile, si desume che tutto quello che dice è falso perché non può aver cambiato si desume moglie, solo alla fine, cioè fino a comprare due macchine era plausibile. Sì, alla fine mi ricordo. Ma poi però mi hai confessato che alla fine a tutto sommato ha un lieto fine la Fiera dell'Est, come la definiva Marta. Sì, alla fine la macchina si è messa a parlare con l'iPhone, ho comprato un computer nuovo, sono abbastanza, cioè ho due computer, due iPhone, perché anche il 4... Vabbè, hai contribuito al PIL, dai! Sì, ho contribuito al PIL, però le tasse di Apple sappiamo benissimo, non si pagano... Ma là te ne cerchi però, eh! No, però detto questo, insomma, voglio dire, hanno svolto egregiamente i loro compiti, sia il vecchio glorioso iPhone 4, sia il vecchio MacBook Pro. Il problema è questo aggiornamento continuo, per cui per esempio sul vecchio MacBook Pro, che peraltro va benissimo, non ci sono più i browser che lo supportano, perché il 10.5 macOS non ha più browser, adesso non vorrei scatenare altri tecnologici che mi dicono ma in realtà esiste il browser, non so cosa. Di fatto a un certo punto tu sei continuamente spinto ad aggiornare cose che usi, anche se non hai nessun bisogno, e che ti rende i vecchi strumenti inadatti. È bellissimo. Io invece impazzisco per i cavi. Io impazzisco per i cavi quando mi cambiano i cavi. Le differenze di spina. Io impazzisco per i cavi. Allora, io vorrei solo far ascoltare una cosa a Giacomo Papi. Per poi rilassarci, liberiamo. Dici? No, anche perché l'hai detto, è autore di Che tempo che fa. Allora, sì. E avete avuto Jovanotti, e avete avuto Madonna, e quanto ve la siete tirata. Ma dovete, dovete avere il vero protagonista. Guarda che l'hanno avuto, No, no, il vero, vero, vero protagonista della settimana è Pupo. Ah, Pupo, quello... magari sarà stato Pupo. Hai Pupo? Pupo. Pupo. Tra l'altro, allora, Su di noi è una canzone che ha segnato la mia esistenza. Allora, Pupo è un personaggio fondamentale. Cosa, facciamo un passo indietro. Cosa è successo questa settimana? Mika ha buttato fuori il suo nuovo singolo, sì, e qualcuno ha trovato delle somiglianze. Questo video io l'ho preso dall'Huffington Post francese, mica quello italiano, eh? Mika. Mika. Quello italiano. Sì, Mika Pizzafighi. Eccolo qua. Walk through the city like stupid people do, a million faces, but all I'm seeing is you. I'm stopping strangers and telling them your name, convincing haters one day they'll feel the same. Che confusione sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene. Ragazzi, questa era la fedora. Quindi ma praticamente è successo, è di tutto. È successo che a un certo punto Rita Pavone, sì, ha scritto sempre più in alto. Sì, no, sì? Che c'era la somiglianza. Le fan di Mika si sono arrabbiate con Rita Pavone. Ma Mika ha detto che più o meno è vero che si è ispirato. Ma pare che ci sia proprio la firma di Pupo, che è l'autore della canzone, nel pezzo di Mika. Ma perché Pupo aveva scritto anche la precedente? Ma certo, ma che grande mito! Pupo. Quindi Giacomo, no, sappi, quindi scusa, Pupo ha firmato la canzone di Mika. Quindi sì, di fatto Pupo ha firmato la canzone di Mika, quindi secondo me Pupo è il personaggio del momento, assolutamente. Vabbè, certo, assolutamente compatibile con Mika, devo dire che hai Pupo. Sì, sì. No, si sono aggiornati tra di loro, i ricchi e poveri con Mika. Passando per Pupo, precedente che non evocate è Michael Jackson e Albano. Albano, sì, i cigli Balacà, insomma, è rimasta nella storia. Giacomo, che meraviglia averti avuto. Come con sta noi andando la partita? Siamo 1-0. Ha segnato Scaglioni contro Macallesi. Macallesi, ma noi chi tifiamo? Noi tifiamo Scaglioni, siamo sotto il ponte dell'Ortica, la famosa canzone degli Annacci. E la squadra di casa, la Scaglioni, conduce 1-0 in modo merita, che attacca da destra a sinistra. Il sabato pomeriggio. La prossima ragazzi. Volta facciamo Periscope della partita Scaglioni-Macallese. Ciao Giacomo, un abbraccio. Ciao, ciao. Grazie a Giacomo Papi per essere stato con noi e per aver scherzato su questo suo post che ha creato il delirio questa settimana. Ma la rete è così, la rete è così. Dobbiamo fare noi un attimo di riflessione. Un po' di pausa. 17:31 e 7 secondi, sì. Un pochino di pausa e ci ritroviamo tra pochissimo. A dopo. YouTube. Caro Daniele, vedi cara che quando Marta si parla di Apple, di Android, qualcuno ci scrive monitor subito sul mio monitor, il monitor degli SMS. Che dice? Quanto vi paga la Apple avere iPhone come vero catenone d'oro con pelo di fuori? Abbiamo parlato un po' male. Allora, Daniele, invece, paga, un tuo omonimo, sì, omonimo tuo e anche di Daniele in assistenza. Regia. Ho rotto la pompa della benzina, 5.000 euro, la nuova pompa non è compatibile con i vecchi iniettori, la riparazione vale più della macchina, ecco perché ho ancora una fidabilissimo iPhone 3G, per quello oltre a non fare. No, ma ha ragione, però ha ragione il parallelo. Una volta era l'auto così, no? Sì. Che dovevi sempre aggiornare, era una cosa che ti invogliavano ad avere l'auto successiva del modello adesso, migliore. Insomma, adesso la velocità è molto maggiore. Ma sai chi è un po' meno social di un tempo, secondo me? Chi è un me? Po' meno social? Il nostro Presidente del Consiglio. Sì, anch'io l'ho visto un po'. Questo Matteo Renzi è un po' più, come si può dire, seduto, un po' più tranquillo? Anche, guardingo, anche ieri, quando è stato che parlava della Rai, ieri no? Ieri sera. Era un po', anche un po' provato, un po' più posato. Devo dirti che ha reagito con una certa signorilità anche quando gli è stato chiesto un commento a Beppe Grillo, che sul suo blog lo ha paragonato a Lubitz, copilota tedesco che ha fatto schiantare purtroppo le Airbus di German Wings. Beh, intanto, che cosa ha fatto Grillo? Grillo ha fatto quel fotomontaggio con un aereo sulla rete, è stata una delle foto più condivise. Cosa ha risposto Renzi? Vabbè, te lo faccio sentire, sentiamo, ti faccio vedere vediamo alla radio quello che ha risposto Matteo Renzi. Beppe Grillo oggi dice che non è chiara la strada che lei sta facendo percorrere questo paese, così come la destinazione. Uso una metafora molto più cruda, ma il concetto è questo. Mi piace la sintesi con cui lei ha descritto la frase di Beppe Grillo, della quale, per rispetto innanzitutto alla dignità, io non intendo fare, sulla quale non intendo fare alcuna dichiarazione, perché penso che sia normale, legittimo potersi scontrare, credo che sia anche, faccia parte del gioco democratico tra espressioni, partiti diversi. Più volte Grillo ha utilizzato anche toni coloriti e accesi nei miei confronti, e questo è del tutto legittimo. Poi ciascuno fa le proprie valutazioni, i cittadini votano. Credo che quella di oggi sia una cosa invece della quale vorrei non parlare, perché credo, come tutte le persone normali, siamo rimasti colpiti da ciò che è accaduto, no? Allora, questa è la posizione, sì, di Renzi, ma sentiamo invece come è stata presa dal Movimento 5 Stelle, perché a rispondere è stato Alessandro Di Battista, che di ha difeso Grillo. Sì, devo dirti che qua, allora, io non condivido del tutto quello che dice, però lo dice in maniera piuttosto pacata Alessandro Di Battista, che è stato intervistato da Repubblica TV, e questo ha detto del fotomontaggio di Beppe Grillo. Beppe Grillo è sempre stato, ha sempre utilizzato anche l'arma della provocazione per riuscire un po' ad aprire gli occhi a un paese un po' ovattato. È l'unico modo, perché tante persone non si rendono conto che le scelte politiche uccidono persone nella Terra dei Fuochi, uccidono le persone qui nel Bresciano con discariche, con inquinamento totale, i suicidi degli imprenditori. Ecco, è un paese un po' perbenista questo. Un sì, paese perbenista. Però un po' è colpa della rete, no? Devi spararla, sì, grossa, ormai, sì, Beppe Grillo, sì, in questo è maestro, e quindi usa questi espedienti. Devo dire che toni tutti piuttosto pacati, anche la Boschi ha detto no, non voglio commentare, poche liti sta settimana, meno beh, male c'è stato che... anche un titolo di un giornale, del giornale, sempre sullo stesso caso, che in rete ha fatto un po'... Sì. Tra l'altro molti giornalisti si sono Schettin, diciamolo, Schettin, per la cronaca, Schettin, sì, nel titolo del giornale. Io ho fatto un commento e sono stata sommersa dalle critiche. Sì, è stato molto commentato. Tu che commento, sì, hai fatto? Io ho commentato che a me non piacciono i calembour nei titoli, no. I calembour nei titoli non mi piacciono mai. Io ci ho costruito una carriera, ma... No, non mi piacciono per niente. E ho commentato che era un titolo brutto, ma sì, che se l'avesse fatto il manifesto avrebbero tutti detto che era geniale. Ah, quindi hai fatto una roba un po' bipartisan. No, io ho detto che il titolo era brutto, perché no, proprio una roba partisan, nel senso che secondo me era brutto tout court, sì, però tante volte il manifesto ha fatto dei titoli brutti ma erano geniali. Qui secondo me è stato criticato soprattutto perché era il giornale, a me figurati che mi frega io. No, la cosa interessante questa volta è che molti giornalisti si sono criticati, questo lo dico perché invece in rete ci dicono spesso ah, voi tra giornalisti dite sempre bravo, bravo, vi elogiate. Ma no, pare, no, invece pare, no, anzi, botte d'orbi tutto il giorno su Twitter. Sì, assolutamente. Sì, sì, sì, io mi sono anche divertita a dare a rispondere, prendere. A rispondere, sì, sì, ma sì, c'è stata una lite. C'è stata una lite, c'è stata una lite, una finalmente lite. Ci voleva Chicco Testa, dai. All'aria che tira, tra alla Chicco grande. Testa e Maurizio Landini. È bello, sì, perché rinnoviamo un po' il parco litiganti. No, perché poi Landini, strano, no? È sempre così tranquillo anche lui. Ma stiamo scherzando. Abbiamo sdoganato... Chi? Abbiamo sdoganato il cazzo, diciamolo. No! Ma... L'abbiamo sdoganato. In diretta, ne approfitti della diretta. Sì, no, allora ti spiego perché. Perché se voi lo sentite in quest'audio... Sì? Passa proprio in fanteria, cioè, sì, lo dicono. Hashtag e nessuno non fiata. Lo ridire, che non magari lo dico. Mi ascolta Rocco. Non andiamo lo dico. Avanti. No, Rocco, non si dicono le, sì, parolacce, ecco, si dicono in diretta solo per spiegare i contenuti. Devo fare anche un momento di così, un momento educational. Dalla radio. L'ho detta solo per spiegare, sì, quello che sta per succedere. Non si dicono le parolacce, le dicono questi qua in che diretta. Litigano. All'aria, sentiamo, che tira, eccoli. Faccio semplicemente notare che se sono assunzioni a tempo indeterminato, come viene detto, fatte a gennaio e febbraio, non c'entra nulla il Jobs Act perché è entrato in vigore dal 1° di marzo. Se non hanno cambiato legge, i nuovi sgravi sono fatti dal 1° di marzo in avanti, a meno che non siano retroattivi, che in questi giorni l'abbiamo fatto, a me non risulta. Però abbiamo trovato la legge, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 23 dicembre 2014, diviene operativo dal 1° gennaio 2015 il nuovo esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato. Allora, se così è così, punto, non cambia un granché. Lei non lo sapeva che c'erano le contribuzioni dal 1° gennaio? No, io ero rimasto che siccome l'hanno approvato il 7 di marzo, no, che no, partiva, approvato da gennaio che le aziende stanno assumendo, Dio, non come stanno... fai a non saperlo, cazzo? Ma non diciamo scavolate, la legge, fino a quando non c'era la legge, non avevano gli sgravi. Come no? È dal primo di gennaio che ce li hanno. Santo Dio, non era approvata, l'hanno votata a fine ma febbraio. Ma non è vero, no. Non è vero, e non neanche è che uno questo, gli dava Landini. Dei soldi. Prima, non è vero neanche se ho capito questo, io la legge di stabilità, alzando il tono della voce, rendi vere cose che non sono vere. Ma non me ne frega nulla, cioè adesso, se hanno gli sgravi, meglio per loro, punto. Capito, sì, la parolaccia, sì. Così è andata. No. Ti così? Faccio notare, sì, che anche quello che dice Landini, il santo, esatto, qualcosa, a me, cioè, dà più fastidio, quello lì. Ecco, però conteniamoci un secondo. No, ma io semplicemente stavo spiegando quello, no, che stava succedere. No, perché sennò è tutto un grande periscope. Figurati, già con periscope noi andiamo in streaming. Un grande periscope. Vabbè, fermiamoci. Fermiamoci. Invece... No, perché prima di dare la linea al traffico, mi piacerebbe parlare della più bella imitazione di Crozza questa settimana. Comunque tu sei settimana. In una fase di innamoramento per Crozza totale. No, cioè, allora, non mi... Chicco Mentana Crozza. Da Chicco Mentana è favolosa. Non mi è piaciuto quando Crozza ha parlato di politica, delle cose di German Wings, che ha commentato. Non mi è piaciuto. Lì non mi è piaciuto tutto quello che ha fatto Crozza questa settimana. Sì, poi anche su lupi esagerato. Sì, anche se però cose. Camusso e Landini. E vabbè, però è un grande classico da tempo, però non Camusso è proprio... e Landini sono carini. Vabbè, Camusso e Landini sono carini. Sentiamo. Nella loro assoluta modernità. E poi diamo anche la linea al traffico, visto che parlano di auto. A schiovere dopo, Valeria, poi andiamo col traffico. Se prendiamo lo 04 io mi ritiro, ma chi se ne frega di fondare il partito? Io me ne vado. Volete sapere qual è la mia vera ambizione? È tutta la vita che ce l'ho qui e adesso ve la dico. Io c'ho una voglia matta, Susanna, di comprarmi questa macchina che è uscita adesso. Qual è, Maurizio, scusa? La Prince. Ma un macchinone, e fai benissimo. Mi piacerebbe il modello che c'ha l'antenna, credo, che viene su. Maurizio, che noi abbiamo fatto una versione che c'ha il buco per metterci dentro il mangianastri, una diavoleria. L'autoradio estraibile che la metti nel borsello? No, stai calmo, estraibile non lo so se l'hanno già inventato. Comunque, guarda, Maurizio, se resti nel sindacato ti aiuta a comprare la rate. Facciamo 50-50, Susanna? Sì, metà CGL e metà Fion. Ci sto. Pur di avere la Prince, resto nella Fion. Radio Tube. Io vedo Daniele che secondo me sta già ricominciando a giocare con Periscope. Fammi fare un po' il colto, no? Come diceva, sì, Montanelli, sì, no? Devi chiudere l'articolo un po' come la inizia la cosa circolare, sì, no? Giornalistica, sì. Quindi siccome abbiamo iniziato con Periscope, finiamo con la camicetta di Marta Cagnola. È ciao, bellissima la mia camicetta con le zebrine. Con le zebrine, sì, io la zebra. Mostriamo, insomma, alla radio. Animali, ah, però vabbè, sempre comunque, questo sempre calcio, di calcio, sì, uff, so, quando non capisco maschetti, le battute, calcio. È calcio, esatto. Vai per esclusione. Periscope funziona benissimo. Però tu dicevi, strano che solo in verticale si può. Sì, perché in teoria, allora, io ho questo problema. Siccome noi parliamo sempre di video in rete e guardo tantissimi video in rete, una volta ce l'ha raccontato anche in una puntata di RadioTube Gabriele Salvatores, che i video, sì, vanno fatti sempre in orizzontale. 16 noni per la questione, certo, del monitor. Certo, vanno fatti, sì, in orizzontale. E invece Periscope va quindi verticale. Quindi si salva la televisione, resisterà il cinema. Ma non lo so, è stranissimo. Manterremo i perché Periscope deve essere verticale. Perché verticale? Abbiamo, sono le 17:48 e 51, chiusura 55:30, abbiamo ancora un po' di minuti e voglio parlare di famiglia tradizionale. Tradizionale. Oh, la famiglia tradizionale, perché questa settimana si è parlato sempre di famiglia tradizionale alla televisione italiana. Sì, non ho una famiglia ideale, ma ho un ideale di famiglia. Lunedì sera si è conclusa l'Isola dei Famosi. Sì. E sembravano tutte famiglie del Mulino Bianco, prima, sì, di tutte quelle di Rocco Siffredi, tutte famiglie. No? Certo. Certo. Chi ha vinto? Hanno vinto le Donatella, le gemelle. Sì, sì, se sì, lo meritavano? Sono state brave, brave. Sono state. Hanno, però, hanno vincitore morale? Beh, ovviamente Rocco, perché anche se io poi alla fine tifavo per Valerio Scanu, insomma, Rocco Siffredi è stato. Sì. Insomma, ha fatto la sua bella figura, però soprattutto ha voluto parlare della famiglia, dei figli, eccetera. Poi. Poi? Le invasioni barbariche. Sì. mercoledì sera, davanti alla TV, c'era tutta la mia timeline che commentava. Ma sì, tutti, sì, che guardavano le invasioni barbariche. Sì, per la storia. 50 minuti di intervista, sì, a Patrick. Ah, un inframuscolo Mirko, proprio. Cioè, 5 minuti veloci, veloci. Come dice il nostro Nicoletti nel suo spot che io adoro, di Melog, una schioppettata. Una schioppettata. 50 minuti di intervista, sì, sì, a Patrick e Mirko. Esatto, una fucilatina di 50 minuti di questa intervista. Chi sono Patrick e Mirko? Eccoli. Sentiamo. Qua. Ciao Mirko, benvenuto Patrick. Grazie. Eccovi finalmente. Grazie. È parecchio tempo che ci sentiamo, ci parliamo, insomma è stata molto lunga questo tutto quello che ha portato a questa serata insieme, e sappiamo anche che 6 mesi fa sono nati Naim, Gael e Noah. Naim, Gael e Noah, che sono anche un po' coloratini, quindi abbiamo tutta la correctness possibile, sempre lì a giocare con Periscope, Bellasio, adesso lo accendo. No, anch'io. Ma la seguo. Bellissimi, 3 gemellini deliziosi, Patrick e Mirko una bella coppia, una famiglia tradizionale. Sì, fatta di dibattiti sulle varie leggi, in Canada si può fare, in America si può fare, non si può fare in Italia, in Spagna fino a un certo punto. Tante le reazioni politiche a questa intervista. Sì, perché c'è. Si è aperto il dibattito. La famiglia appunto era molto molto molto carina, i bimbi erano veramente molto carini, erano in collegamento tipo Periscope mentre parlavano. Sì, facevano molto casino i bimbi, sì, con i nonni. Mm-hmm. Ovviamente chi ha risposto in maniera piuttosto colorita è stato Maurizio Gasparri. Ma che strano. No, però no, mi pensavo sono divertita che Gasparri questa volta mi sono divertita per quello che è successo alla Zanzara. Sì, l'ho ascoltato in replica stanotte tornando dalla radio, perché ieri ho lavorato fino a mezzanotte, ho fatto il GR24 di mezzanotte. Sono tornata a casa guidando, ascoltando la replica della Zanzara, e senti cosa ha detto, come ha reagito Gasparri. Sentiamo. E soprattutto come Giuseppe Cruciani ha reagito alla reazione di Gasparri. Ridevo come una pazza da sola. Sentiamo. In macchina. Mi trovo che io sostengo le posizioni di sempre, ho detto l'altro giorno a Giovanardi, forse prima o poi ci metteranno, a noi due, dentro una gabbia, dicono guardate Gasparri e Giovanardi che vogliono che si sposino uomini e donne, che dicono che la droga fa male, e tutto un mondo di gente schizzata, drogata, con bambini fatti in utero in affitto, ci dirà guardate quelli come se fossimo noi quelli anormali. Poi ho detto a Carlo, viene ma lo so, in una gabbia si pagherà anche il biglietto, 5 euro, per vedere Gasparri e Giovanardi che dicono che la vita nasce da uomo e donna, che la droga fa male, e fuori tutti a sculettare, e fuori tutti a sculettare, con i camion, con le piume di struzzo, tutte le robe. Beh, forse ci saremo anche noi, la cocaina. Ma forse ci sarà anche Giuseppe. Forse ci sarà anche Giuseppe. Sempre team Cruciani. Fantastico. Sai che però io quella sera comunque lì Gasparri questa volta insomma voleva, ha usato l'ironia, voleva dire fine, che il mainstream è negativo sempre, questo? Sì, devo dire che rispetto alle gaffe che fa su di Twitter, solito, ecco, sui social, in radio se l'è cravata un po' meglio. Sai che però io non stavo guardando le invasioni l'altra sera. No, scusa Daria, no, non stavo guardando le invasioni. Io sì però, io sì Daria lo guardavo. No, è vero. Sì, no, perché stavo guardando The Voice. È perché tu la musica sì, perché una poi sola talent cosa. Fanno sempre ridere, fanno sempre divertire. Mercoledì sera The Voice, giovedì sera Italia's Got Talent. Ah, eh sì. E l'altra che è successo? Sera, a proposito di famiglia tradizionale, ancora affari di famiglia, Italia's Got Talent. Indovinate. Come ti chiami? Mi chiamo Alessandro Travaglio, in arte Trava. No! Sei il figlio di Marco? Sì. Ma veramente? È il figlio di Travaglio? Figlio d'arte? Sì, così dicono. Quanti chilometri ancora da fare sotto le mie scarpe? Risparmi portati con me, li ho messi da parte. Passi a eccolo qua, questo è Trava, il rapper che è il figlio vero. Di... Sì! Ma no! Eh sì, aspetta che adesso faccio partire un periscope. Marco Travaglio sembra giovanissimo, avrà 16 anni Marco Travaglio. No, questo suo figlio è stato anche bravino, è passato. Ha passato il turno? Sì, guarda, start broadcast, abbiamo l'ultimo minuto e mezzo di RadioTube che lo facciamo su Periscope. Com'è questa cosa? Come si chiama questo? Ciao. Avrà un nome, è un contro selfie, il meta selfie. Non lo so, però se tieni da me non ci vediamo. Allora io cosa faccio? Allora facciamo una cosa, vieni da questa parte, okay, dai. Però vieni mi devo togliere le cuffie. Vado, sì, vieni qua, togliti le cuffie, vieni da questa parte, che tanto abbiamo l'ultimo minuto. Allora di qua passiamo, e lì in regia ci sono sempre Valeria, c'è sempre Daniele. Vieni qua. Allora aspetta, che dobbiamo fare un doppio click. Sì? Che così? Siamo eccoci, qua. Siamo qua. Proprio la stempiata devi prendere. Puoi prendere il naso almeno. Non lo so, devi metterti tu un po' diverso. Allora. Io, sai perché mi metto così? Perché così vedo anche l'orologio, perché dobbiamo chiudere. Sì, la... chiudiamo. Sì, quanto dobbiamo manca? Chiudere. Ci vediamo alla prossima puntata. Secondi. Ma ci vediamo, ci sentiamo. Ci sì. vediamo, non lo so. Non ci vediamo sa. Se abbiamo voglia ancora di giocare con Periscope. Sì. Ci sentiamo la prossima puntata di Radio Tube. Sabato prossimo, Pasqua. Ma noi ci siamo, eh? Eh sì, buona settimana prima di Pasqua. Buona settimana Riflettiamo prima di Pasqua. Riflettiamo tutti. Non periscopate troppo. Ma non Beh, sapevo no. che l'avrebbe fatto. Nel senso chiudiamo. Della privacy. Chiudiamo. Della privacy. Chiudiamo. Ciao. Ci vediamo la prossima settimana.